Ciao a tutti, sono Alessandra e oggi vorrei leggervi due lettere tratte da una raccolta di lettere, appunto, scritte da Rosa Luxemburg. La prima è a Kostya Zetkin, suo compagno, suo amante. Dudu, amore. Oggi sono andata per la prima volta a dipingere la natura. Ho preso l'autobus fino allo Schlachtensee e bruciavo d'impazienza. Ma Dio santo, quante difficoltà! Ah, Dudu, se per 2 anni potessi dedicarmi solo alla pittura, mi divorerebbe completamente. Non andrei a lezione da nessun pittore e non chiederei neppure dei consigli. Vorrei imparare solo dipingendo e facendo magari qualche domanda a te di tanto in tanto. Ma questi sono sogni vani, non posso farlo. La mia miserabile pittura non serve a nessuno. E invece, dei miei articoli le persone hanno bisogno. Gnu gnu, non posso scriverti tutto quello che vivo e che vorrei vivere con te. Ho i nervi molto tesi per l'agitazione, di notte non dormo, solo poche ore di giorno e sono in preda a 1000 stati d'animo. Dentro di me, speranza e sconforto. Si scaccia una vicenda come nuvole in cielo. Ah, Dudu. Baciami la piccola e dolce gattina sulla testa e sulle guance. Non sono gelosa. Quella piccola creatura innocente l'amo anch'io. Il garofano di ieri è una meraviglia. L'ho messo anche in acqua. Il 2 aprile 1911 scrive un'altra lettera, sempre a Kostya Zetkin. Piccolo gnu gnu, non volermene, ma devo partire per la Svizzera. Ieri è venuto Lenin, è la quarta volta. Con lui parlo volentieri, è colto, intelligente. E ha uno di quei brutti musi che mi piace tanto guardare. La povera Mimì ha fatto una grande impressione su Lenin. Ha detto che solo in Siberia gli è capitato di vedere un animale tanto maestoso. L'ha definito un Baskirkot, un gatto sontuoso. E anche Mimì non è stata da meno. Si è messa a civettare con lui, si è rovesciata sulla schiena per attirarlo. Ma appena Lenin cercava di avvicinarsi, giù a graffiarlo soffiando come una tigre. Ti bacio e bacio anche Mimì. Questa lettera Rosa Luxemburg la scrive a Matilde Jacob, direttamente dalla prigione in cui è per i reati di incitamento alla diserzione e offesa a pubblico ufficiale. È il 7 febbraio 1917. Mia cara Matilde, chissà quando potrò sedere di nuovo con lei e Mimì a Studende, a leggervi Goethe, ad alta voce. Però oggi voglio comunque declamare a memoria una poesia che mi è tornata in mente questa notte, Dio sa perché. È di Conrad Ferdinand Meyer, un poeta svizzero che amo molto, autore di Jörg Jenestash. Si accomodi dunque, prende in braccio Mimì e metta su quell'espressione solenne da pecorella che assume sempre quando le recito qualcosa. Allora, silenzio. La confessione di Jutten. Ecco che cammino sulla mia tomba. Ehi, Jutten, vuoi confessarti? Così sono usi fare i cristiani, mi batto il petto. Essere un uomo non significa dunque avere coscienza delle proprie colpe. Mi pento di aver compreso troppo tardi il mio compito. Mi pento perché il mio cuore è arso di una fiamma troppo tiepida. Mi pento di non aver agito nelle lotte che ho sostenuto con più coraggio e di non aver inflitto colpi più duri. Mi pento di non essere stato bandito più di una sola volta. Mi pento di aver sovente conosciuto la paura. Mi pento di ogni giorno trascorso senza ferite. Mi pento di ogni ora trascorsa senza ira. Mi pento, lo confesso, con la più grande contrizione, di non essere stato 3 volte più audace. Questi ultimi versi li farà incidere sulla mia tomba? Mi ha preso sul serio, Matilde. Ci rida pure su. La mia tomba, come la mia vita, non recherà traccia di frasi altisonanti. Sulla mia lapide voglio che si leggano solo 2 sillabe. Svi, svi. E il richiamo delle cince allegre che so imitare tanto bene da farle accorrere subito. Pensi, da qualche giorno, in questo zvi zvi che di solito scintilla chiaro e acuto nell'aria come un ago d'acciaio, c'è un minuscolo trillo, una piccolissima nota di petto. E sa, signorina Jacob, cosa significa questo? È il primo lieve trasalire della primavera imminente. Nonostante la neve, il gelo e la solitudine, noi, le cince allegre e io, crediamo alla primavera in arrivo. E se per troppa impazienza non la dovessi vivere, non dimentichi che sulla mia lapide non deve esserci altro che un zvi zvi. Abbraccio lei e Mimì con una terribile nostalgia. Sua, Rosa Luxemburg.